beh, adesso ti porto la mia scotch e ti posso vedere se c'è quello delle balle. Ora c'è l'apparato. E poi non si fa, c'è una cosa che tutto il suo, se lo fanno fare, fanno rubare, si ripara dalla macchina, piano piano, con un paccolino, visto, no? E te balle ho bisogno. E i miei occhi vedono una comincia a maticare e a buffare. E te balle, a abitare. E senta, hai detto a bisogno. Già faccio le battaglie, ci misce di paolo, perché ce l'aveva la ragazza a spago lui praticamente. E dice, ci ho fatto il banco, beh. Il morto. Cazzo, una propria cittadina è fatta, va via che. Tanto. Vediamo, dai cosa è. Che c'è il vostro nome, cazzo, una extraterrestre, cazzo, che va sotto la doria. L'ho chiamato all'uomo più fornito al mondo, cazzo, la ci assultava, cazzo, rubinieri. Da fuga, su dai incendi. Viva e l'ora amara. Però dicono che è una malattia, va bene. Cazzo malattia, se quanto aggettivo, vedete in cosa, allucinante, quasi 60. Cazzo, non hai detto. Che gambe ci aveva, cazzo. Posso dire, vabbè. Però, vabbè. Però è un casino, cazzo, quando devo, capito? Beh, allora, questo qua, c'è morto. Mi pare che è morto 2 anni fa, già. Quando è morto, io me l'avevo operato, non so che c'era quel male. Quando, prima di operare, che l'avevano operato, l'avevano anche fotografato, perché dice che era una cosa incredibile, cazzo, mai visto una cosa del genere. Allora, questo uomo qua, cavolo, c'è anche una cosa un po' brutta, cioè non ti posso spiegare, non podia nemmanco, che, cioè, faceva del male alle donne. Un casino, era sposato con la moglie, cioè ha avuto anche figli praticamente, solamente che utilizzava delle cose perché era esagerato. No, te la mandava, non gli fece la bocca. Una cosa del genere. Un braccio quanto è lungo, più o meno, una cosa del genere. Dai, no, ramara. E me non sto scherzando io, Antu. Queste sono cose che... Cose vere, proprio scommesse e perse anche, cose proprio... Tu cazzo prova a chiedermi, si chiamava Tiangirino di Santa Natura, prova a domandare in giro, conosci tutto il resto. Certo, è allucinante. Beh, certo, se facessi una scommessa con lui, la belli di sicuro al 100%. Non lo so, quello. Tu pigliamo un po' con quei tavolini che usavano nel bar, quei tavolini rotondi. E beh, se lo misurava. Lo misurava, basta da banco, la basta a pace lo baciava. Cazzo. No. Infatti vedo la moglie di Natale, cazzo, una russa, che la ditta vede c'era amarato, che ci diceva problemi. La ditta vede se l'aveva intrappiantato qualche brubrusci, te. Allucinante, cazzo, bruh. Scappa, comunque, ce n'è un bel di gente così, eh. Oh, beh, io vi saluto, chiudo, che mi sta pizzicando un po' il sonno, va. Ciao Franco, ciao Teresa, ciao Luca, se ancora l'ascolto, Daniele, e a tutti gli ascoltoni, ci risentiamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao Bierpa, qui adesso nel mondo dei sogni, è già sorraggente. Cava cava, ce la riascolta Bierpa. Capitano A, così, e chi me? Ma tu non fa vedere mai, accorti sempre. E allora? Che buffo, E la re, ci vuoi fare la commissa, lo chisso? No. va per bene, ma su che vuoi? Allora vi vedete che avendo i biglietti da 50 mila franchi, allora era in lire 50, 100 mila scommessa, di una rete già fatta. A mangiare due vito, cioè mi ragazzi ce n'è pure andato. Beh, se non è matto, sto facendo comunque, ho sentito che c'è un bel po' di gente così, per da... Grava, grava, andar bene merda. Ma non c'è rimasto solo nessuno, tu? No, non c'è rimasto solo nessuno. C'è Daniele, c'è... C'era anche Luca, ma Luca non riprende più. Pagava. E tu perché sei cadena tu? Non ci sono mai andato. Mai? Mai. Non so neanche da che parte incominciare. Non so se l'amo è dritto o quadrato come te. Ci va. E adesso ci sto andando perché c'erano problemi, capito? Quindi c'è freddo poi, no? Oh, non ci sto andando perché non c'è niente adesso in questo periodo. Però quando cominciare il periodo delle dorate da ci va a farmi qualche, diciamo così, qualche pescato. Già fatto, già è bello. Ma io sinceramente non ci ho mai provato, però sono sicuro che qualcosa faccio. Ehi, provare, la pesca è così, se ti piace poi ti attira e... È uno svago, diciamo, è un passatempo. Ma adesso com'è, fra? Non ci ho mai provato, ma dicono che quelli che sono, cioè, diciamo, imbranati, non hanno mai fatto... Potrebbero pescare un bel di quello che magari ha già pescato e tutto quanto, è esperto. Infatti, è così. Franco! Ehi, dimmi, dai. Guarda adesso com'è. Prova. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5, com'è? Bene. Ehi, aspetta che abbasso un attimo. La gava è che la gava. Bene va sempre. Ecco, prova a aumentare il bicchierino un attimo. Aspetta. Guarda, l'ho aumentato, com'è? Prova a aumentare ancora. Non va più. Ammanetta il bicchierino. Cala, adesso ammanetta. Lascialo così. Già va bene, là. Adesso va meglio, prova. Guarda un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, questo va bene. 9,3 sta arrivando qua. Cala, cala e cala, cala. Questo è quel microfono, l'altro. Quale l'altro? Quello che ho fatto io. Ehi, l'ultimo. Quello nero? Cala, se vuoi ti rimetto l'altro, c'è la prima. Prova a vedere. Aspetta. Comunque, per la posizione che è, Daniele, si difende bene. C'è una posizione buona, tu, cioè c'ha problemi. C'ha problemi all'antenna, lui, capito? Che c'ha l'antenna messa un po' male, diciamo. Guarda adesso col suo, com'è? Lascia questo. Che la. Va meglio questo, no, tu. Sì, va bene. Ascolta a me, Daniele, con quante volte sta uscendo adesso, più o meno? Quanta? Aumenta ancora. Guarda, 90. Aumenta ancora. Guarda, 100. Lascialo così. Il bicchierino lo abbasso. Abbasso appena appena. Aspetta. Guarda, l'ho abbassato. Lascialo così. Allora, che ora era? 9:32 sta arrivando. Allora, via. Troppo, aspetta che... Mi sa, sono troppi 100. Lascialo così. Truppi. Cosa truppi? Metto quanto c'hai, 20? Guardo. E 20 solo. 18 ampere, 19, 20 ampere c'è adesso il movimento. Ci siamo quasi, va. Va so qua che distanza ce l'hai. A più di un palmo. Papà, ascolta a me, prova a inserire quel pulsante. Guarda, dov'è? Di inserito. Adesso non c'è. Prova a inserire. Adesso c'è. Lascialo così. Dai, già va bene, dai. Cava. Ehi. Deve scaldare. Più di tanto, Cosa, fra? Già va bene così, lascialo così. Cava. Ehi. E questo ha bisogno di calore. Ehi, cava. Lascialo così. Un attimo, come ce l'ha arrivando a te? Bene. 9, appena più di 9:10. Qua mi sta arrivando, no? Più di 9:30 quasi. No, va benissimo. Tu sei sul più, sei. Vabbè. No. Gappa. Daniele, ci mette la terra sul tetto uguale lì. Ehi, dallo zazzo. Gappa, andar bene. Già va bene. E questo male, meglio sta. Già è calata. Ma quel libro non te l'hai preso, non mi ricordo, non l'ho mai detto la roba. Cavagava, fra, non ci sono problemi. E fa tutta quella roba che ti ho detto. Fra? A preparare tutta quella domanda, capito? Avevo compreso. E che piremmo, l'hai compreso. Arrivi bene qua, arrivi molto bene, non problema. Vabbè, io sono una donna buona anche. Tu mi stai arrivando? 9:30 quasi mi stai arrivando. Io? Non ero 9:20. Oh, vedi, te non riconosci il segnale qua. Qua sei spaccato 9:30, dai. Sul più stai arrivando quasi. Chiappa. Sul più sto toccando, sì. E io come sto arrivando lì? Stai toccando il più stesso. Cappa. Vabbè, io sto pilotando 5 watt, modulati. Cappa, e anch'io più o meno così. Cappa, andar bene meda. Già vabbè, qua lo stesso, fra, sei 9:30. Ce n'è, ne va. Adesso voglio provare una cosa. Prova. Guarda questo bippi com'è. E guarda quello di lui. Serioso, no, a me non mi piace. No, va bene, a me non dà nessun fastidio. Fastidio, non mi piace. Io sono un nemico dei bippi. Radio spavento. Come ti arrivo più forte io di Daniele a te, al tu? Cappa, c'è un abisso. Figura di Daniele, io sto pilotando 5 watt. Cavagava, quando ti arriva tu? Ho appena detto, diciamo se intorno c'è più di 9:10, dai. Fai un passaggio, adesso mi alzo un attimino, va. Voglio vederlo meglio. Guarda un poco, vai. È quasi 9:20. Cavagava. Ascolta a me, l'alimentatore va bene, sì. Ehi, stai andando. È una bomba quell'alimentatore. Ho visto, piccolino e funge. Cavagava. No, dicevamo, ogni tanto si inserisce. Ma stacca, dopo un po' si riattacca, tanto la volta sta sempre inserito e è a posto. Quello attacca quando scalda il disparatore di calore, come scalda, entra a funzionare la ventola, come raffredda si stacca la ventola automaticamente. Aia, no, ma sta sempre mandando aria fresca, già la sento. E se non si può fare un sistema lì? Si può mettere diretta la ventola, sempre, ma non ti conviene lasciarlo così. Intanto non cambia nulla. Lì è sempre inserita e va bene, è rinfresca sempre. Cava cava. Cava va bene, la casa così, non sta toccando, il vento, quando ti vedo se prima non prendo, lascialo così e buh. Non tocca se... anche da bene, come sta toccando, qua esce una bucaria. Questa è quanto ha migliorato, tu da poco fa adesso. Cava, ho visto, ho visto. Ma lui quanto ti arriva? 9.30 ti arrivate. Secondo me ti arriva qualche cosa in più. 9.30 arriva. Allora dovrei dargli fastidio. Beh, non lo so, prova a parlare. Parla allora Daniele e parla tu, a vedere che passa. Ola, ola. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com'è? Allora passa, lo passa. Ega, ti passa tu. Grazie. Prova a abbassare di basso, adesso mi basta. Sta pilotando. Ti avrà secondo me puntata 50, modulati 100. Tu sei scende un sincolo, ma te, quindi chiaramente ti passa. Fra, sono il doppio. Di più. Te sono il doppio. 100. Cara. A Maratona è il PVR? No, a metà. Prova a mettere la manetta a vedere. Ma non cambia, qua, la manetta. Cazzo non cambia. Cambia. E di io. Beh, io sto guardando anche lo strumento di qua, eh. Allora si è passato a 9.30, 9.32, 9.33. Una cosa, figlia come gira la 48 normale, avvisi, fiduci tu. Va a mettere 48, un attimo. Aspetta, che sta con questo e sta con l'altro, aspetta. E vai, Ghiccio. Basta, tu metti il baracchino normale, la vedi che arrivi di più. Con questo altro esci... Giusto, cagare il cappuccio. Come da lì? Guarda adesso, Franco, com'è? Con che scia adesso? Con capo, con tornado? 48. 9.20. Prova a parlare assieme. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com'è? Non ve la vai a passare, no, da lì? A me passa? Sì. Cava, cava. Ehi. Aspetta, attacco l'altro, là. Te l'ho giudito. Con 5 watt non ce la fai a passarlo, Antonio. Anche perché siamo molto vicini. Lui è a Limadette, io sono al monte, quindi siamo molto vicini rispetto all'altra zona. Se non c'è il watt, lì... Le palle. Senti, no. E vengono che prende importante. C'è un'altra da arrivare. E tra l'altro c'era anche il bip. 9.10. Devo andare. C'era anche il bip inserito. Qualcuno sta pilotando qualche tipo. Questa macchina che porta in capo. Dai, grazie. Va. Adesso si sente la differenza. Daniele, va bene così. Io dico questo, che gusto ci prendo? Cioè, io non mi piglio gusto, bro. Sì, la prova. Che pezzino ancora. Cava, cava. Abbasso, fra. Adesso sì. Aspetta. Adesso, com'è? 9, più di 9.30, sì. L'ho rimesso a metà. E già va bene, lascio così. Potrebbe immaginare però che se io... Sarebbe molto importante, Antu. Torra. Deve essere la tua zona comunque. Negativo. Ma ti arriva a te quella portante, una curiosità? Dove? C'è la 9. ce la faccio, era stata qua, me ne ero accorto all'istante. Gappa gappa, andar bene mela. E va bene così, come dice quello, e va bene così. La mia radio gava, gava. Radio Spavento. Allora, già sì, si chiamano così. Oh, ya, ya. Aspetta, parava, no, abbassato. Lascialo, sempre tu candy, cazzo, va un vizio. Se dico la voce no, aumenta, diminuisce, abbassa, va del cioè, la metà tonda a tonda. Ma la voce. Bene, la voce. Ma... quello qui che è un vecchio bidone, vedi, ti sto quadrato in lì, un bidoncino che sta parecchio. A me non mi pare un bidone. Ebba, cos'è, un giocattolino, Ma, secondo me non sembrerebbe un giocattolino, secondo me è un giocattolino che va benissimo. Vabbè, un apparecchietto così, dai. Giusto per farmi una chiacchierata. 5 watt, passasse il cenere in avanza. Guarda, te lo compri fra 100 euro. Non a giocare a pagare luce io. Già mi è arrivata anche una luce, 280 euro. Tu ne sai. Oh. E di acqua, 280, 295 euro di acqua. Tu ma va, con questo molletto dell'acqua è un casino. Mi la giù bagata, la luce è leva. Oh, stiamo lavorando per pagare per i pagamenti, capito? Non lo sai così. Comunque per il bollette dell'acqua ci sono un sacco di casini in giro, Tu me lo chiedi a tu. Uno di quelli che per quello aveva fatto da quel portachiavi col gettone. Sì. Ma se te ne capita qualcuno che mi serve. Se ne capita qualcun altro perché l'abbiamo già tirati. Già trovo. E invece me lo da parte. Anche perché è utile quando vado alla scisa c'è il gettone, hai capito? Se tu non ce lo vai un euro e non pigli un carrello, invece a 3 euro gli rendi. Giappa, se me l'ha già piccato e lui se lo prendi, se lo metti dentro, fa la stessa. Cioè, mi serviva uno di quelli. Giappa, non c'è problema. Guarda, andar bene bella. Ecchi me! Ecchi me! Questo qual è il suo il microfono? Già, il suo originale. Questo mi piace di più. C'è il suo microfono, andava bene. Strano. No, ma vero. E voleva provare un altro microfono lì. Va bene. Ma Daniele, lì si può mettere anche... l'MB più 4, lo sai? Aspetta, mi sono spostato un attimo che sta facendo casino il quadrupede. Dimmi. Gappa gappa. Daniele va un cane, altro che pare un cammello. Vabbè, tu quanto strano. Strano, se lo vedi già se ti devono le mani in capo. Un cavallo bari su cane. È altro che un meticcio di razza, cioè non è un cane di razza, è incrociato con un altro cane, però è bello, un bel cane. E da me da dove gli fa un nome, un meticcio, io chiamo in un'altra maniera. Si chiama Jagor. Jagor. Non mi ha detto un altro nome. Jagorino da dito. Jaguino, poi c'ha, se veri bombolai, boh, fattami. La Lucia. Ora gli ha discusso una giusta, tu a pugni, ha giubilato. Ci metti che è un cane che è un bel parlatore. Se la giubilato umana a pugni, la giubilato in terra. E che un bel battaglio. Dopo che ripiazza a parrarsi. Ci vuoi afferrare con me, se la metti ha acciappato l'avversario, un bel... più fosse detto, la giù con un paio di bugni era giù radio grollate in terra. Che sai cosa ho fatto? Quindi me ne è capitato uno che sono stato a casa. Che mi dividia, ma è arrabbiato, invece vorrei accarezzarlo. E stai sempre a pagende, sono un macco. No, questo qua, gli piace giocare questo qua. Però è resistente per come te cane, ma era giusto. Però da poi l'hanno cominciato a quello 1-2, boh, si bocciano per la fase più. Sei un cane strano. Ecco, il tuo cane è intelligente, è come se dice la cara. Quanto è grande il nostro? Eh? Quanto è grande il nostro? Dopo ci vedono io, altro che la terra, la buccia della gianchetta. Che sai cos'è? Ma tu te lo compri il mio cane? No, lì si sono brave, non fate di niente. Tu te lo compri il mio cane? Avanti il becco con la mascella. Però nonostante tutto che piccolo anto di razza, di cane, è un bel apparratore, ogni volta che lo porto giù si azzuppa con il cane più grande di lui e si tira la gola, capito? Schietta, dicono che il cane di buono è di Romagna. Non male mano che l'aveva sotto. Un giorno l'ho portato giù, c'era un pastore tedesco e l'ha preso alla gola e praticamente questo pastore tedesco ci aveva questi collari con i chiodi. Come se l'ha pizzicato, ci ha messo tutta la bocca, lo cane, tutti i denti ci hanno tolto. Ha fatto male, eh. Un bel parlatore, non teme niente qua. Altro se tu lo vedi a casa è tranquillissimo, però se lo porti giù e ci sono cani anche più grandi di lui, affronta. Ti affronta lo stesso, non ti minuta. Gatto, c'è il gatto di mia sorella, che cioè, è bravissima, è una gatta, di quelle europee a pelo lungo, è bravissima, no? Non fa niente, però come vede gli altri gatti, diventa fa rabbia. Come il cane, è un cane aggressivo, però va a fare altro un coso, un pitbull. Ma l'ha detto. Ormai sono amico mio, se lo volevo. Ci ha fatto la cucciolata piccolina, mi ha detto, io lo volevo prendere, la moglie non lo vuole. Il pitbull è un cane particolare, è un cane che ha bisogno di molte attenzioni, devi conviverci un po' e tutto quanto, soprattutto la notte devi chiamarlo, anche un bassalto, se non ti riconosce ti aggredisce. Già lo so. Così. È un cane che è imprevedibile, ma anche Rottweiler è il picchio. E non è a livello del pitbull. Quindi un maradetto lo vecchiani. E ne aveva uno coso, come si chiama? Tore Barracocco, gatta, perché era cattivo quel Rottweiler. Sono cattivi, sono le due razze più pericolose che ci siano. Anche che ne so, anche il Doberman così. Ma sì, mamma mia. Bisogna, comunque la notte prima di scendere per esempio dalla macchina, se c'è in campagna, in posti così, prima di scendere da lì devi chiamarlo, perché è un cane particolare. Esatto. Ah, la signora mi ricordo qua al monte di aver sbranato tutta la faccia. Non so quanti punti gli avevano messo in faccia, proprio se gli aveva entrato a faccia, capito? Cappa, lo fa anche quel padrone, lo fa. Lo fa molto, molto spesso volentieri anche quel padrone. Cioè, volentieri. Cioè, se magari ti vede in trend, figlia ti aggredisce, ma non è che lo vuole fare. Lo vuole fare perché non ti riconosce, è un cane così, è particolare. E a me non me l'aveva fatto una cosa del genere, che l'aveva aggrebbato. non penso proprio, no. Che il cane si avventa al padrone, ma sta scherzando tu. Mio zio c'aveva un cane, un pastore maremmano, e una volta si è avventata a lui, a gamba, gli aveva preso il polpaccio e gli avevano messo praticamente 27 punti nel polpaccio della gamba, capito? E poi questo cane l'aveva regalato a un altro, e poi questo che l'aveva regalato l'aveva fatto ammazzare, perché era un cane un bel pericoloso. Tutte le persone che trovava ti tentava, si faceva accarezzare, come ti girava, e boom, andava la dieta e si sbranava. Scappa. No, non è che voglia dire sui pitbull. È successo, il palazzo dolce mi sembra che sia successo, un fatto del genere, che era con una bambina, non so se ti ricordi. Sì, non tu, per carità, una cosa, ma dipende sempre da come la... Allora io una volta sono andato lì ad Alghero a fare un lavoro, giù alla playa, a vedere, ero io e Nanni, un collega mio di lavoro. Siamo entrati con la borsa e il ferri e in lavanderia stavo cenando e noi stavamo avere un frigo lì in cucina. Poi c'era questo mano in mano, mi ha fatto un bassà, tranquillo. E poi da lì, ora meno male che c'era quel borsellino, tu, sennò guai. Ma ha fatto il borsellino, ha fatto quattro puntate di rete e me l'ha bucato a parte. Bastardo, cazzo. Un fatto del genere è successo anche qua, che praticamente, non per un fatto del genere, diciamo, è successo che la bambina è andata a aprire la porta, aveva un pitbull, era mozzicato a capo, e gli ha fatto male, però gli ha fatto perché ha avuto paura, diciamo, però la bambina mi sembra che era ricoverata, non mi ricordo cosa gli hanno fatto. Questo è infatti, e sono calunque pericoloso, dipende sempre come dalla razza anche dei cani, come lì. Ma questo cane qua di Alghero con tutti, infatti poi l'avevano denunciato al padrone proprio dalla playa, e non so che fine gli ha fatto fare quel cane, mi pare che gliel'avevano ammazzato, poi non lo so. E tutti quelli che passavano in strada di sbranava, a uno una volta gli hanno messo roba di 30 punti nella gamba, era tutta aperta, capito? Era un cane molto grande di età anche, però non riconosceva neanche col padrone lì, perché si tirava anche al padrone, tu figurati che tipo di cane, mentalità che aveva questa bestia. E allora questo qua l'aveva fatto ammazzare, perché l'avevano fatto un bel di denuncia a questo, capito? C'è una volta ne avevamo cercato un carabiniere che stava passando lì, aveva strappato tutti i pantaloni, gatta, la gamba, aveva fatto un bel di danno, aveva passato un gran casino, quello lì allucinante. Ma d'altronde questi cani qua, non lo so. E come il Doberman lo stesso, c'ha la testa piccola, poi in confronto alla testa che c'ha, il cervello magari è più grande della testa e diventano pazzi, capito? Troppo. Dicono che molti di questi cani qua, tipo pitbull e cosa, quando fanno così non sono puri, dicono. Non lo so. Quello che c'ha Ecchime, gli Agurino, è bravo invece. Sempre pitbull. No, che razza è, Daniel? Bettizia. Bastardino. Un bastardino, tu, ma non sai quanto è alto questo cane, allucinante. Che cappa. Però è un cane bastardo, perché mi ha detto che morsica, così. No, gioca, un cane deve piace giocare. Cioè tu vedi la dentatura di quel cane, visto là il pitbull come c'ha i denti, uguale identici. Cosa fa, le mascelle grosse? C'è cioè, le mascelle grosse e poi la dentatura, cioè i due denti davanti, i due denti di sotto e poi i dentini piccolini. Tipo, come ti posso dire, la dentatura di una tigre, di una pantera, roba del genere, tipo così. tu ti vai in una mano, ma siamo sicuri che è un cane. No, dai. Ehi. Vabbè, allora, approfitto del saluto e me ne vado a nonna. Ciao Daniel, ciao, ci sentiamo alle prossime, avanti tu. Ciao Daniel, ciao. E praticamente lui gli ha messo Iagurino. Senta Iagurino. Iagurino, ma se non si mangia pure Daniele sul cane. Non l'ha visto Iagurino. Iagurino, chi è Daniel? No, a nonna se n'è andato. Iago! Non ti sente, c'è un numero un bel basso. Pochetto questo cane. Lì c'è un bel giocare, mia tu. È un cane, un bel giocarello. Oh, guarda, vabbè, ora che chiudo, sentiamo oramai, ciao ciao. Che sono tonti questi cani meticci, dai. Però non è vero. Ciao, Daniele, buonanotte. Kappa. Secondo me il Bazzardini sono intelligenti. Allora, io a parità di cani, dove tu gli altri cani che vuoi, io che sai, Schnauzer, e poi Doberman, roba del genere, mare, il cane più intelligentissimo che c'è sulla terra è il pastore tedesco, non c'è? Kappa. Io non è che... A me quel bastardo di pastore tedesco una volta mi ha musicato al culo. Guarda, secondo me il pastore tedesco non c'è, è il cane più intelligente che c'è. Secondo me. Affa, sono andato a portare una bombola in una campagna lì. Vabbè, in una campagna, la Mazzani e Varia, una bella casa, dai, lì in via Pietronelli, non so se tu sei dov'è. C'era uno di questi cani qua, sono andato a togliere la bombola e cosa, ha tirato una musica da culo. Giappa, giappa. Se ti ha avuto paura magari del gesto, come ne stavo togliendo la bombola, che ne so. Infatti dal giorno, signora, lei che il cane, se no io dalla moto non ci scendo. Quanto è la bombola della dice adesso, tu? In casa? Sì. 27. Aumentato? Negativo. 17. Lasciato. Ascolta a me. Ah, 27 però consegnata, dai, io ho capito. Chiappa, se la viene a prendere sarà 23. Ecco, e vabbè, fa 4 euro. Non è tantissimo. Ma voi cosa ci avete? Proprio il negozio buono, roba vostra oppure come a conto di principale? No, principale. Ma Gappa. Allora conosci anche a Bartolucci. Capisotti, a Quinto. Sembra con un allon più su Dippo. Che di Vreto? Sì. Sì, lo conosco, cioè. Un caramizzoso, E Roberto è critica giallastri. Una volta stavamo piazzando delle apparecchiature in un ristorantino dove c'era una trattoria, diciamo. E addirittura poi stava mettendo un regolatore di alta pressione, no? Un regolatore superiore a quello, gli ho detto qua ci vuole uno con 10.000 ora, no, è troppo a minori, allora manco un 20.000, cazzo 20.000 ora, ho detto 11.000 ora, ho detto guarda che è troppo grosso, no, se no mettiamo un regolatore di alta pressione, guarda che non va bene. E non si preoccupi del banco, ho detto guarda che non va bene che spara nel banco, no, ha fatto questo regolatore di alta pressione e ha sparato tutte le valvole della cucina. Sempre lo solito buglione, non di... già lo so, cioè, poi non ho saputo neanche dire, perché 12 kg l'ora, un 12 kg l'ora per una cucina industriale va benissimo, che assorbe tantissimo. Io, per carità, invece tu 9 kg l'ora va bene, 9 kg l'ora praticamente una cucina, 8 fuochi, 2 forni e una piastra, un fry top. qui non andava benissimo. Oh, troppo basso, è troppo basso. Ma così, faccio io tutto da aereo, non sa nulla. È piuttosto dell'aereo. Non lo sai che così. Sì, lo sai cosa gli si mette, gli si può mettere, ma se vai in un regolatore di tale portata non ne varrà bene, gli si può mettere il regolatore di primo e secondo stadio che vanno benissimo. C'è un regolatore di normale, da 12 kg e un regolatore di pressione per dare un po' più di spinta, ma non è che sia tosto granché. E il 12 kg va bene, tu, a voglia. Perché non ce la sono a campagna della bomba la domenica. E mi ha detto, ma lei non è cliente mio, vabbè con questo. Ciao, sono cliente suo, lei ma le due di bombole del male cliente. Hai tacco qua una cosa, cantinare ti bombole dritto, abbigliardini e bagnardini, se no ti ribruci. E se si vuole tra buglia d'altra, tutti i canti non ha buglia d'altra, un carotto di nuovo, ma tu a mezzo metro la bici. No, io la sto prendendo sempre da poi, qua giù, ma la prendo io, tu capito? E se no la faccio portare, se ci sono io, guarda, me la prendo io. Però ti dico una cosa, a me la bomba da 10 kg ci fa 2 mesi, anche. Che cappa, allora ti indovinato, la biglia la fusa a mezzo metro, la Calvino. La Calvino, non lo sapete si chiamava così soprannome. No, vabbè, già mi è mezzo metro. Perché mezzo metro? Perché è basso. Sei uscito già, ma nel secondo. Ma quello che è il padrone, quello basso grasso, Calvino? Sì, diciamo che c'è il padrone e poi c'è l'armamento, ma non me lo ricordo bene, perché poi c'è Rita Antonio. E c'è Rita Antonio? Vabbè, ma tutti i figli sono qui, o fratelli, non lo so, come ci vai comprendo nulla. Comunque lavorano, tu? Sì, lavorano, sì. Hanno sempre lavorato. È un bel cliente, diciamo, lavorano un bel. Ma che usai lavorava, vanno più come te prima. Chi è? Noi abbiamo sempre lavorato spesso, adesso un po' di meno, ma anni scorsi abbiamo usato anche i ritmi altissimi di lavoro. Adesso diciamo una cosa, tu, che la perdita sul gas c'è perché sono queste super pellet, ha calato moltissimo la bomba sulle stufe. Se tu non ti stufi a gas non è che ne hanno, non è che ce ne siano molti in giro, capito? Adesso con questa categoria delle super pellet il gas ha mollato parecchio. Non è tanto quello, anche c'è anche un altro fatto che molti ci hanno messo il gas in città. Ma io odio quel gas, io lo odio quel gas. Le piace, è pure un bel gente, le rende, costa di meno e lo usa. Lo usa, ma su certe cucine. Io mi so cucire con gas in città a fare le pentole nere come il carbone. No, apparentemente stanno usando un giro sbagliato. Beh, quello sì. Allora, sul gas in città, praticamente se su GPL monti un giro l'85, sul bruciatore piccolo, 85, sul gas in città devi montare un giro a 120. Guarda la differenza, Lo so, sono un po' più sbasato, un po' più grosso, e lo so benissimo, se tu usi quelli per il GPL ti va delle bentole, niente. Non so se ti è mai capitata una cucina nuova, che voglio cambiare gli ugelli. Beh, certo, tu pigliare mia cognata, ha comprato la cucina e aveva cambiato gli ugelli. Una volta sono andata a casa sua e ho visto questa fiamma che sembrava una stufa. Tutte le pentole nere gli ha fatto, ho detto ma gli ugili cambiateli, io no, ma noi se bisogna usarla così, e lì c'aveva praticamente gli ugili del gas città stava praticamente stava lavorando con gas in città con la bomba GPL, tutto lì, con gli ugili di gas, cioè gli ugili a coso, di gas in città con la bomba GPL, quindi andava malissimo. E non va assolutamente bene, non va assolutamente bene, e se no ti fa origine, ti cattere il bentone di niente, ma anche quello del forno vuole cambiato, perché se no io via. Esatto, allora normalmente le cucine quando tu le acquisti vengono vendute già con gli ugili di gas città, praticamente. Poi chiaramente se c'è il GPL vi fai la modifica, vi fai la trasformazione da gas città a gas GPL. Ma fate di mettere gli ugili che fanno bene a fare le bombole. Vai, o se, di solito andiamo in dotazione, ma se non andiamo in dotazione, vai l'affare su l'ACD e lì ce li hanno. Io gli ugili sono a memoria perché il bruciatore piccolo è da 85, poi c'è il medio 95 e il grande da 102. Ma poi io tutta una volta li ho piazzati anch'io. Io ne ho esperienza di queste cose, ne faccio poco, ma quando mi ci metto già li faccio. Vabbè. Quindi adesso questi che fanno gli impianti di gas, roba del genere, se non sei qualificato e c'è l'autorizzazione, non puoi toccare neanche gas, niente. Lo so, altrimenti sono un cavolo. Quando mi dicono, c'è da fare un impianto di gas, e qua se mi porta il tubo, ho detto no. Non è competenza, ma lei mi ha portato la cucina, e beh, cosa c'entra? Se io ti mando la cucina, non è detto che io ti faccio le piazze del gas, no? Per fare le piazze del gas ci vuole un'autorizzazione particolare, io non ce l'ho e non te la posso fare. Ma lei mi fa un puglio come no, io non gli faccio nessun puglio, io gli faccio un puglio come gli ho consegnato la cucina e basta. Se poi lei vuole il collaudo, io il collaudo glielo faccio, automaticamente quando gli fanno l'impiantistica del gas a norma con tutto il valvo e tutto quello che ci vuole. Perché adesso negli alberghi non è più come prima che metti le bombole e prendi e vai. Adesso devi avere un polmone particolare, il polmone che sia come l'elettrovalvola, praticamente con una valvola che si mette all'interno della cucina, e questa valvola qua se c'è perdita di gas automaticamente va a bloccare l'elettrovalvola del gas, capito? Sì, lo so benissimo tutte queste nuove normative. Per esempio una volta c'erano le centraline, tu apri un rubinetto, apri l'altro e scia il gas, adesso no, adesso dentro c'è la sfera che blocca, pure se tu ti lasci il rubinetto dall'altra parte aperto, quando stai cambiando la bombola il gas non esce più, perché c'è questo nuovo sistema, c'è la sfera dentro, non ti fa uscire il gas, a spingere spinge, ma a uscire non esce, e tutti questi nuovi sistemi che stanno facendo. È un casino, con questa normativa bisogna stare un po' attenti. Adesso c'è un controllo negli alberghi, nei ristoranti, allucinante. Addirittura nelle cucine, nei ristoranti, nelle pizzerie, i lavelli, non tocca più niente con le mani, deve essere tutto a pedale, anche i lavelli. Lo so. Ma adesso tu ma guarda e dico ancora non viene nemmeno uno in regola se tu vai a controllare. Che poi dico questo, gli ospedali mandano l'USL in giro a controllare queste cose, se vai a controllare negli ospedali c'è più merda a cazzo dei ristoranti, cioè ma te ne dico conto? Troppo, nessuno in regola. Guarda, non voglio fare nome, perché per carità, noi avevamo un ristorante in via Milano che da fuori vedevi così, ma tu devi entrare dentro in cucina, ti si attaccavano i libri da terra, ti ho detto tutto, è in via Milano, vicino al gommista. Prova a farti un pensiero, se tu conosci quella zona di gare, è un grandissimo bottone. Ho capito quello che stai dicendo, che fa locale notturno anche. Chiappa, è un grandissimo fazzone qua, devo prendere le bombole con i pezzi di straccio, scendo così a tipo valigetta, ma cosa, non c'era altro modo, se me la mettevo sulle spalle non riuscivo a staccarla. Aspetta che il ristorante è quello lì, te lo dico subito. La Rosa dei Venti. Ci sei quasi arrivato, la locanda. Non basta. Sto qui a gare, mi sto cubulando da travagliare, mi sto cubugito. Praticamente ci sono le cucine che sono nere come il carbone. Tutto grasso, sporco, per carità. Allora già hai visto pure tu qualche cosa. Una volta sono entrato in cucina, ne farà lo barattaggio della pasta asciutta, non è che ha preso, sai come si fa, deve scendere la pasta asciutta in terra, ce la butti via. Mi raccolta, grazie alla lampada, si è posta dentro al contenitore, d'ora. Per carità di Dio. E non sai quanto lavora, ui. Lui adesso è aperto, lui chiude alle 4, alle 5 di mattina. Ma è un grandissimo fottone, non uso dirti cosa è successo anche una volta. E tu non mi dire il ristorante, perché io il ristorante di Sassa li conosco tutti quanti. Tu dimmi che locale di cultura locale che è pulito, chi è sporco, chi è tozzone e tutte queste cose qua. Io voglio andare al ristorante a Sassa per quei motivi a mangiare. Allora il ristorante è bello, dove si mangia bene, non so dove, il castello. No, sono anche un grandissimo amico nostro, la Pia Franco, la Perla Rosa, che si mangia bene, poi adesso un altro ristorante che adesso non mi ricordo, al Tiffany, che ce l'abbiamo avuto per tanto tempo, o delle locali quelle. Tiffany pulito, Tiffany, tutti quei locali, sì. Poi c'è un altro locale, non è pulito, adesso non mi ricordo, ma il vecchio Senato, quando era il Senato, che adesso non c'è più, era molto pulito, e ce n'erano locali belli puliti. Allora, però che se mi hai tu la locanda degli eventi, ma nemmeno se mi paga oro ando a mangiare a bighivi. Cosa vuoi prendere? Dove abbigliare bombole? Con la massima cautela e non sta troppo in cucina, altrimenti mi si attaccano i gori, le berighive, come te la colla. C'è una volta, cavolo, si è messo a tagliare le fettine sopra il cestino della mondetta. Per carità, che gente tozzona. Che schifo. E poi la basta un video, un odore. Una volta facevo rifiutato il paio di lavori a quello. Ma adesso io c'ho questo problema, allora lei c'è questo problema. Io domani vengo e glielo risolvo, però prima me la pulisce bene la pattuglia e poi gliela faccio. Ma sai, ma adesso io mi sento, a me non mi interessa niente. Lei la lava, poi domani vengo, gli ho fatto il culo, ho detto, mi rifiuto di eseguire lavori a causa apparecchiatura non idonea per la manutenzione. Da buio, le bombole, bocce bene, vicino alla vigitrice, mamma mia, si passa anche flessibile i ghibli per incatturante in aria. La vicina alla vigitrice, nel frigorifero battato, niente da mettere un carbone, l'uso niente, pari uso motore. Sì, ho visto tutte queste cose. È più pulito che se viene in cavaro meccanico che chi sa roba. Infatti gli ho detto, ma questo io non l'ho cambiato mai, l'abbiamo cambiato ieri sera. Ma dice cosa frigite, che è buono patate occhi. Sì, la migliore, uguale, le più grandi schifette non esiste assolutamente. Ma va bene. Tu figurati, vai a mangiare da queste persone, ma non ti innanzi, lui. Io posso mangiare un paio con la mortadella, ma quello che sicuro che è pulito. Trappa, comunque c'è bisogno di stare attenti in un disanda, Non mi ricordo che passo, tu lì a San Mattarella in questo locale. Appare una revisione della cucina, cazzo, sta piena di uno, non ti potevi. scatta, so che non devo preseppare, devo preseppare, va via la camicia pure, alta canta. E come si è appoggiato se gli ha attaccato la camicia? E gli ha fatto, l'ha chiamato, mi scusi, caro padrone, dica, dica, scusi, ma il bagno lì dove ce l'ha? Dice, giri a destra, tiri dritto, la prima porta a sinistra. E ha detto, vuoi preseppare, no, no, non ha capito. Voi il bagno ce l'avete qua in cucina, perché sulle cucine voi ci cagate. Ha fatto uè, qui c'è un grandissimo bozzone, l'aveva detto. Sento rimasto così, ma mi dica, scusi, faccio una cosa, apri la bandita, corri, tirare il berro e te ne sei mandando dai nonni, ce la faccio fare da chi vuole, che non ci lavoro, dice, a me della merda. Ma tu vai, cos'è? Ehi, guarda, ti assicuro, comunque quel tipo, ritornando sempre a quel tipo là, va via pure un poco di malattia, mi. No. Caffa, malattia un po' di denaro, ma quella lì l'abbiamo stroncata subito. Sì, malattia di denaro, siete per roba di 3.000 euro, hanno visto. E anche non riusciamo a cavare a venire. Caffa, a noi verrà un po' caretto probente, ma è finita subito, in tronco. Ma lo sai quanto ci deve quella pizzeria vicino a casa tua? Eh già. Quella di pizza. E a corso. E allora no, ma non te lo dico, quella di pizza deve quasi 1.400 euro. Ehi, furgonetto è buono, me. Già ho capito che stai dicendo. E non ti facciamo mai quella frequenza. Stasera sono andato a fare una brigitrice. L'ho controllata, era a posto, tutto quanto, ho detto guarda che c'è una fattura da pagare di 1.480 euro. Ma il titolare non c'è, sa, sì, ma la paga del tempo è passato. Prima erano 30, 60, 90 e 120. E qua c'è da incassare. Mi ha detto adesso lui non c'è domani. Adesso domani se non paga bene ti buttiamo la friggitrice. Tu che sei sempre vivi, cosa ti crede? Allora, devi dire, però quando vedere la macchina da qua che era dentro, come si tratta di denaro, però non va bene così, però quando chiama la gente va a essere pronta a andare a risolvere dei problemi, ma la frigitrice c'è un problema, ho detto, vabbè, lei mi paga le 1.400 euro della fattura di 90 giorni, che è, cioè, già 3 mesi che non l'ha pagato, e poi si risolve il problema, io non ti posso fare un travaglio, già mi devi 1.400 euro, ancora questi soldi qua non sono entrati, capito? Cioè se noi non incassiamo poi gli stipendi a fine mese, è un casino tu, capito? 300 Guido, 400 l'altro, 500 quello, 500 l'altro, e siamo sempre di sotto. Ma tu vuoi comitivi visto sempre di che adesso avrai troppo tardi, magari ti ha sarrato, però si farava magari verso di dietro di cui ci tuoi dove la ciaffa vivere. A chi lo so che è sempre vive. E comunque secondo me fate male, dovete subito stroncagnare in corto, non mi pagherà prima, non accorta va una cosa, dammi soldi se no te ne vai a quel paese proprio, perché se no ci perdete solo soldi con questa gente e basta. E noi ho fatto un lavoro lì a Santa Teresa. Ma qui ci ho detto, grosso modo quanto ci vuole, guarda, dico grosso modo signora, a fare questa revisione ci vogliono solo 700 euro tra pilotti, tubazioni, rame, biccuni, Sì, sì, sì, la faccio, ho detto guarda, finito il lavoro, deve cacciare i soldi, signora. No, non ci sono problemi, aggiungatemi lo che butta qua, io è un ragazzo, il figlio del titolare. Scusate, le vostre lavate, le vostre fonte a posto, sì, il vostro conto, 700 rotti euro erano, ma questo è roba di 2 anni fa. Vabbè, ma adesso mio marito non c'è, vabbè, no, anche la torta suo marito. Verso le 8, vabbè, ripassiamo, signora, ci sono problemi. Andalo tu, vabbè signora, E mia madre non arriva, parli per un marito, tutto canto. E ma lei gli accordi erano così, io pago 90 giorni, no. Gli ho detto, gli accordi erano così. Gli accordi per il lavoro io dovevo incassare i soldi. Adesso 740 euro. Ma così non va bene, ho detto, va bene, non ti va bene, neanche a me mi va bene, che io lavoro gratis. E allora glielo faccio vedere subito. A lasciare i garagiavi, come è stato smontato? Ti ha dato la cucina, tu. Ho smontato la cucina, ho detto, metti tutto il furgone e va. Ma noi domani dobbiamo aprirci, ma noi dobbiamo mangiare. E ci servono i soldi. Allora, non mi paga subito, se no mi sto prendendo tutti i pezzi della cucina e me li sto portando via. Ma così, vabbè, adesso a pigliare i berri, rimonto tutto. Pigliami mi carica il giro furgone, pigliami si butto tutti i pezzi a sassa, tanto. E domani, chi tu piglia, c'è una piccina e cazzotto, ma così, i pezzi qua e là. Lo detto, vuole che gli ripiazzo la cucina. Guardi che non sono più 740 euro, no? Ma invece sono 980 euro, ci lavori così. E se non ti dai la cucina, ho tagliata di montata. Troppo, sto gentaglia, guarda, no. Non c'è definizione, no? Certo, ma una cosa la compri, da questo quanto, patuisce, tanto, figliati di me, paga. Infatti sono gente che cerca sempre di fregare il prossimo, e biglia sempre baruguru il prossimo. La gente non poi non è fessa, chi dove trova di paga maragana? Forse è quello. Lì domani sono andato, la giù piazza della cucina, ha pagato 980 euro, ha detto, ma mi scusi, guardi, io l'ho fatta così perché mi piaceva pagare 90 giorni, ha detto, vabbè, mi ha dato l'idea, ha fatto da chiamare, ma ha detto, c'è un problema, sì, i problemi, però i soldi subito, altrimenti, invece di andare a chiamare lo matto, sai quando siamo andati a fare il travaglio, lo vennari. Ti fatto bene, ma che impara a fare il tronco? Insomma, con queste persone qua bisogna fare così, tu, se no i soldi non li recuperi più, siccome c'è un po' di gente che... Specie, ma non tanto qua a Sassari, più che altro lì alla zona di Santa Teresa, quelle zone lì, Olbia, Porto Cervo, lì ci devono un casino, una marea di soldi, capito? Gente che tu gli prendono i locali in gestione, li fai da voi, poi partono, mollano la gestione, la prendono l'altro, boh, e si butta e si bruciano tutti i soldi. Sai che ci sono fiduciosi, bisogna stare attenti con quella gente. Bisogna stare attenti, quando sai chi si sono le più bassate. Dai, fra, che ore sono? Adesso andiamo a nanna, ma va bene Anto, là. A che io chiudo adesso? Ciao Anto, là, ci sentiamo alla prossima. Saluto anche all'eventuale, se doppio vuole, sono in ascolto. E tutti quelli anche che non sono in ascolto. Io pure me ne faccio i guerriti, dai. Ciao Anto, ciao ancora, ce la riascolto alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, ciao, fra, comunque grazie per la chiacchierata e ci sentiamo alle prossime. Che ore sono? Me lo sai dire? Mezzanotte 20 gimbe. Minchia. Vabbè, ciao ciao, buonanotte. C'è anche la vecchia addormentata. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Stanotte me l'ha fatta troppo. L'hai sciolto sul baracchino, No, questo baracchino è il mio gioiello. Anto, ciao, ciao. Ciao, ciao.